Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ritornare in quell'oasi di pace dove sono adorato dalle mie vecchiette e magari farmi dare una camera e restare lì a lungo. E questo è evidentemente così un'aspirazione, un desiderio di Berlusconi. Chi ha chiesto, ma deve tornare a Cesano Boscone, sapete, una volta alla settimana deve andare appunto in un luogo di ricovero per anziani malati di Alzheimer. Ma poi per par condicio sentiremo le battute un po' di tutti questa sera, almeno soprattutto dei tre principali contendenti di questa campagna elettorale per le europee, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. E per esempio c'è Renzi che cercando di fare concorrenza anche a Grillo era in piazza oggi a Roma, ha detto la piazza è nostra. Grillo ha detto tutti a Roma, sarà un trionfo. Infatti poi ci collegheremo anche con la piazza a Roma per sentire una parte del comizio di Grillo, perlomeno per avere un po' il clima. Adesso però vi ricordo quali sono i canali attraverso i quali potete partecipare a vostra volta, come sempre Effetto Notte. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, aderite sempre, guardate la pagina Facebook senza nessun indugio. E poi c'è invece il numero per i messaggi, per gli sms al 349-238-6666. Se facessi qualcosa di strano questa sera è solo perché abbiamo cambiato studio, è tutto speculare, ribaltato. A volte dicono che facendo le cose ribaltate, un po' diciamo inedite, e si allena il cervello, si evita di invecchiare. Così adesso faremo in modo alternato, un po' in uno studio, un po' in un altro. Comunque partiamo con le cose tradizionali, quindi con il riassunto della giornata. Al via il voto in Europa, i primi alle urne Olanda e Gran Bretagna. Per l'Italia Election Day domenica 25 maggio. Truffa, Carige, riciclaggio ai domiciliari Bernaschi, vicepresidente dell'ABI. Perquisizioni anche nella sede Unipol SAI. PIL, dal 2014 in vigore le nuove norme Eurostat, nel calcolo del prodotto interno lordo conterà anche l'economia illegale come droga e prostituzione. Camorra si pente, il boss dei Casalesi ha prontato un programma di protezione per i parenti. Stasera Effetto Notte, vi ricordo la giornalista anticamorra e senatrice Rosaria Capacchione. Thailandia, i militari prendono il potere, l'esercito sospende la Costituzione. Cultura, il governo approva il decreto che prevede sgravi fiscali per le donazioni, parte la riforma dell'Enit. Ciclismo, al Giro d'Italia, Uran vince la tappa odierna e strappa la maglia rosa a Kader Evans. E partiamo quindi dalla campagna elettorale. Sono già andati alle urne, diciamo, in Gran Bretagna e in Olanda, e tra poco ci collegheremo per sapere quali sono le prime indicazioni di voto. L'affluenza è comunque in calo e a metà pomeriggio aveva votato nei Paesi Bassi, cioè in Olanda, solo il 19% degli elettori. Poi con un collegamento capiremo appunto quali sono i risvolti di questo primo voto. Ma per quanto riguarda l'Italia, penultimo giorno di campagna elettorale, cominciamo a collegarci con Stefano Totoro a Milano, in piazza c'è Grillo? Non c'è ancora Grillo? Ah, non c'è ancora il nostro, non è ancora in collegamento. Bene, allora, per quanto riguarda la campagna elettorale, proprio i colpi finali della campagna elettorale in Italia, proseguiamo dopo. Invece passiamo a un altro tema oggi di primissimo piano, cioè la truffa alla Carige. Sembra che ovunque in Italia si provi a perquisire, a scavare, fare, si trova sempre del marcio, con 7 arresti che coinvolgono ex vertici della Carige, imprenditori e professionisti accusati di aver fatto parte di un gruppo che dal 2006 al 2009 effettuava acquisti gonfiati di società facenti capo a persone compiacenti. Gli arresti, anche eccellenti, sono scattati oggi, ma poi dopo invece ci collegheremo direttamente col nostro corrispondente da Genova per sapere bene quali sono i dettagli di questa vicenda. Perquisizioni ci sono state anche la Unipol SAI, l'amministratore di Unipol SAI Carlo Cimbri e altri manager risultano indagati dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla fusione tra Unipol e Fonsai. Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol SAI, il gruppo assicurativo nato dalla fusione tra Unipol e Fondiaria SAI, è indagato dalla Procura di Milano per aggiotaggio. Con lui sono stati iscritti nel registro degli indagati anche Roberto Giai, ex numero uno di Premafin Finanziaria, Fabio Cerchiai, ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni, e Vanes Galanti, ex presidente di Unipol Assicurazioni. Al centro dell'inchiesta del sostituto procuratore Luigi Orsi c'è la questione dei concambi tempi fissati per la fusione tra Unipol Assicurazioni, Premafin, Fondiaria SEAI e Milano Assicurazioni. I concambi sarebbero stati alterati andando a incidere sulla fusione e sui rapporti di forza tra gli azionisti. L'ipotesi dei magistrati è che i concambi si siano basati su valori delle società non del tutto corrispondenti al vero. In particolare, il valore di Unipol Assicurazioni sarebbe risultato più alto alla luce di una valutazione troppo positiva degli immobili e dei prodotti strutturati all'interno della società. In una nota, il gruppo Unipol auspica tempi brevi per la conclusione delle indagini che, si dice certo, confermeranno l'assoluta correttezza del gruppo. Angelo Mincuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stefano Totoro adesso a Milano in piazza è rimasto ammaliato da Grillo, non ti troviamo più Stefano, come va? Ha iniziato a parlare Grillo? È appena salito sul palco, in realtà da qualche secondo è salito sul palco, accolto dalle migliaia di persone che ci sono qui in Piazza Duomo. Al momento della salita sul palco di Grillo tutti quanti hanno acceso una di quelle stelline di Natale che si usano di solito a Capodanno, hanno illuminato la piazza, ecco, in questo modo. Grillo è, sta iniziando in realtà il suo intervento adesso, perché pochi secondi fa ha presentato a tutto il pubblico Dario Fo, il premio Nobel per la letteratura, che anche in occasione dello Tsunami Tour dell'anno scorso, in occasione delle elezioni politiche di febbraio, era venuto a dare il sostegno al Movimento 5 Stelle. Dunque Dario Fo ancora con il Movimento 5 Stelle in una piazza che però è un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, è più vuota. L'anno scorso a Milano Piazza Duomo non aveva assolutamente spazi vuoti, quest'anno probabilmente la minaccia del temporale ha spaventato molti sostenitori. E certo, piove, diciamo che non è una serata fortunata. Piove, però all'inizio, diciamo intorno alle 18:30, quando è iniziato la festa del Movimento 5 Stelle, qui c'era pochissima gente, via via la piazza si è riempita e al momento sì, insomma, bisogna dire che ci sono migliaia di persone, ma sul fondo della piazza si cammina tranquillamente. Naturalmente, se volete, vi richiedo la linea fra poco su quello che sta dicendo in questo momento Beppe Grillo. Va bene Stefano, allora ci ricolleghiamo dopo con la piazza di Milano dove c'è Grillo, appunto, che sta per chiudere la sua campagna elettorale. E adesso invece parliamo della vicenda MediaTrade. I magistrati di Milano che indagano sul caso hanno chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi per Pier Silvio Berlusconi e 3 anni e 4 mesi per Fedele Confalonieri, entrambi accusati di frode fiscale. Questa è la richiesta del PM. Adesso occupiamoci invece di Camorra per una notizia quasi bomba, si potrebbe dire. Oggi il boss del clan dei casalesi, Antonio Iovine, ha deciso di collaborare con i magistrati. La notizia, inaspettata e clamorosa, viene considerata da molti storica. Il boss Antonio Iovine ha deciso di collaborare con la giustizia. Conosciuto come Oninno per il suo viso da bambino e il suo primo arresto, che arrivò quando era giovanissimo, Iovine, 50 anni, è considerato il ministro dell'economia della Camorra, uno dei 4 capi del clan dei Casalesi. Arrestato nel 2010 a Casal di Principe, dopo 15 anni di latitanza, condannato all'ergastolo in via definitiva al termine del processo Spartacus, il più importante contro i Casalesi, dopo 4 anni di carcere duro, il boss si è arreso. Da qualche giorno, riferiscono alcuni quotidiani, ha iniziato a ricostruire davanti ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli il complesso delle attività e dei rapporti di uno dei più potenti clan di Camorra, dalla gestione delle attività criminali alle guerre fra clan fino ai rapporti con il mondo degli affari e della politica e i possibili contatti con apparati deviati dello Stato. Nei giorni scorsi i parenti di Iovine sono stati tutti trasferiti in località segrete. È stato lo stesso boss ad indicare i parenti a rischio da includere nel programma di protezione e quindi da allontanare dal casertano. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, a proposito di questo argomento, di questa notizia clamorosa, ci sarà qui a Effetto Notte più tardi Rosaria Capocchione, che è grande giornalista di cronaca, è stata per Il Mattino, ha fatto tante inchieste sui casalesi, per questo è sotto scorta, adesso che senatrice del PD è sotto scorta perché ha ricevuto diverse minacce di morte, lei e Saviano. E a proposito di criminalità organizzata, il presidente della Repubblica Napolitano, salutando Civitavecchia e ragazzi della nave della legalità in partenza per Palermo, ha ricordato che lo Stato ha dato molti colpi alla mafia, molti capi, ha detto, sono in galera e ci rimarranno. E domani Palermo ricorderà l'uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Spostiamoci all'estero, con l'ennesimo golpe in Thailandia, al 19esimo, i militari hanno preso il potere. A 8 anni dall'ultimo colpo di Stato, i generali thailandesi tornano a prendere il controllo del paese. L'ennesimo golpe, è il 12° dal 1932 a oggi in Thailandia, è stato annunciato in TV, oscurate tutte le altre trasmissioni, dal capo di Stato Maggiore Thayut Chan-o-cha. L'ufficializzazione della presa di potere da parte dell'esercito dopo un incontro con le principali parti politiche thailandesi in un complesso militare di Bangkok. 2 giorni fa l'esercito aveva proclamato la legge marziale, negando però si trattasse di un colpo di Stato, dopo 6 mesi di crisi politica e violenza in piazza che hanno portato a 28 morti e oltre 800 feriti. Gli scontri tra le cosiddette camicie rosse, che appoggiano l'ex premier Thaksin Shinawatra, a sua volta deposto da un golpe nel 2006, e i suoi oppositori. Il primo ministro in carica, Ngluk Shinawatra, sorella del magnate accusata di essere un burattino nelle mani del fratello, è stata costretta a dimettersi il 7 maggio scorso. Immediata la reazione al colpo di Stato delle camicie rosse, aspettatevi rappresaglie, hanno annunciato via Twitter. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia adesso per parlare di immigrazione. Dopo 2 giorni di navigazione, trainati dalle navi della Marina Militare, sono arrivati questa mattina al porto di Augusta i 500 migranti salvati 2 giorni fa a sud di Capo Passero, tra loro anche 133 minori. È la prima volta che in uno sbarco si registra un numero così alto di bambini. Proprio per questo ad Augusta sono stati portati biberon, pannolini e confezioni di latte. Sempre in mattinata nel porto di Pozzallo sono arrivati altri 460 migranti. Di questi, almeno 300 sono stati accompagnati all'aeroporto di Comiso per essere trasferiti in città del nord Italia. Cifre impressionanti che si aggiungono ai 38.000 profughi arrivati sulle coste siciliane da inizio anno, un fenomeno sottovalutato dall'Unione Europea, ha dichiarato a Radio 24 il ministro degli esteri Federica Mogherini, ora a Lisbona per partecipare alla riunione ministeriale del dialogo euro-mediterraneo. La frase con la quale viene accolta ogni mia richiesta, tutte le sedi internazionali, di condividere con l'Italia la responsabilità del salvataggio delle vite umane e della gestione dei flussi migratori. Riconosciamo con grande favore che l'Italia ha cambiato politica, ci dà quella credibilità per dire agli altri paesi aiutateci a gestire questa situazione, perché noi stiamo facendo la nostra parte. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura lo sport con il ciclismo. Rigoberto Urán conquista la 12ª tappa del Giro d'Italia, strappa anche la maglia rosa a Cadel Evans. Il colombiano dell'Omega Pharma vince il cronometro individuale tra Barbaresco e Barolo di 41,9 km e diventa il nuovo leader della classifica generale. Bene, adesso direi, intanto voi potete continuare a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Note, che è sempre a vostra disposizione. Direi di prenderci una pausa aggiornando chi sta viaggiando e poi cominciamo a entrare nel vivo di alcuni temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete visto, poco tempo giusto per aggiornare chi sta viaggiando. Intanto vedo fra le notizie anche queste prime exit poll che riguardano le elezioni europee. Sapete che hanno cominciato a votare in Gran Bretagna e in Olanda in particolare. Bene, in Olanda c'è un testa a testa tra i cristiano democratici del CDA e i liberali del D66, così si chiama questo partito. Calo invece degli euroscettici anti-euro del PVV di Wilders, secondo il primo exit poll sulle europee pubblicato dalla TV NOS. Poi ci collegheremo direttamente per capire appunto cosa sta succedendo. Tra poco invece penseremo alla nostra di campagna elettorale con le ultime battute finali, ci ricollegheremo con la piazza di Milano per capire se Grillo ha cominciato il suo comizio e poi faremo sentire anche un pezzo del comizio di Renzi, che invece era a Roma, e anche Berlusconi, che era a Roma a sua volta ma all'Eur nel Palacongressi. Allora vi ricordo quali sono state, visto che c'è stata una pausa, le notizie principali di oggi. Dicevo, quindi al via il voto in Europa, i primi alle urne sono Olanda e Gran Bretagna. Per l'Italia Election Day domenica, si voterà sia per le comunali che per le europee. Truffa a Carige e riciclaggio ai domiciliari Bernaschi, vicepresidente dell'ABI, Associazione delle Banche Italiane, perquisizioni anche nella sede Unipol SAI. PIL, dal 2004 in vigore le nuove norme Eurostat, nel calcolo del prodotto interno lordo che farà l'Istat conterà anche l'economia illegale come droga, prostituzione, contrabbando. Camorra, si pente il boss dei Casalesi, ha approntato un programma di protezione per i parenti. Vi ricordo che più tardi a Effetto Notte ci sarà la giornalista anticamorra e senatrice Rosaria Capacchione. In Thailandia, dicevamo, il 19° golpe con i militari che prendono il potere. E poi per il ciclismo al Giro d'Italia, Urán vince la tappa odierna e strappa la maglia rosa a Cadel Evans. Qui Quindi ricolleghiamoci con Piazza Duomo a Milano con Stefano Totoro. Piove ancora, adesso io qui da fuori dagli studi non riesco a vedere, mi dovrei girare di... La novità è che è appena iniziato a piovere rispetto al collegamento di prima. Prima non pioveva, adesso si è iniziato a piovere, alcuni stanno andando via, si stanno allontanando dalla piazza, in tanti hanno aperto gli ombrelli. Il leader di 5 Stelle, Beppe Grillo, sta continuando il suo intervento sul palco. Al momento, diciamo, in senso giornalistico la notizia non c'è, nel senso non ci sono grandi novità della campagna elettorale di Grillo fino al momento dell'intervento del leader di 5 Stelle. Sostanzialmente Grillo ha detto che questo movimento è qualcosa di diverso, che al di là dei sondaggi è un movimento che cambia un modello di vita, è un pensiero, e ha detto il sogno di Berlinguer che sta continuando con questo movimento. Al fianco di Beppe Grillo c'è sempre il premio Nobel Dario Po, che è rimasto sul palco anche in questo momento, un po' più riparato, diciamo, rispetto a Grillo. Stefano, quindi c'è Dario Fo e ci sono altri che seguiranno. Casaleggio mi sembra che sia forse solo nella giornata finale, domani dovrebbe essere Casaleggio presente. Casaleggio è previsto soltanto nella giornata di domani, dovrebbe riprendere la parola Dario Fo. Prima di Beppe Grillo si sono alternati alcuni consiglieri regionali di 5 Stelle della Lombardia. Dopo Beppe Grillo probabilmente prenderanno la parola anche alcuni deputati, ma questo insomma ancora tutto da vedere, dipende sicuramente anche dalla pioggia e cosa succederà in piazza se continuerà a piovere in questo momento. Già, bisogna contare anche questi imprevisti. Grazie Stefano Totoro, grazie a voi. Prendi l'ombrello, mi raccomando. Adesso invece, a proposito di quello che diceva già ieri, che ha ripetuto oggi, ieri eravamo in collegamento con Firenze dove era Beppe Grillo, oggi a Milano, ha detto questa cosa particolare, che vuole continuare in continuità, insomma avere una continuità con la questione morale di Berlinguer. Sentiamo che cosa ha detto Renzi a questo proposito dopo aver sentito questa affermazione. Ieri, in una città alla quale sono particolarmente legato, un signore si è fatto prendere in collo da un altro signore e ha immaginato di evocare il nome di Enrico Berlinguer. Giù le mani da dei nomi che non appartengono a chi non ha neanche la titolarità di pronunciarli. Non si mette nella stessa frase la parola "io sono oltre Hitler" e poi Enrico Berlinguer. Sciacquatevi la bocca! Sciacquatevi la bocca! Sciacquatevi la bocca! Insomma, diciamo, tono stentoreo anche Renzi. Invece Berlusconi era sempre a Roma, ma all'Euro, al Palazzo del Palacongressi. Sentiamo un passaggio. Sono molto preoccupato anche di quello che succede non solo in politica estera, ma d'altra parte. Abbiamo un governo largamente inadeguato alla situazione e, francamente, quando qualcuno li ha chiamati dilettanti allo sbaraglio, io ho convenuto con chi diceva questa frase, e quindi da questo punto di vista siamo molto molto preoccupati, anche perché si continua con la politica economica che ci ha portato alla crisi e che minaccia di aggravare sempre di più questa crisi. Ognuno insomma ha continuato a dire la sua. Naturalmente voi potete continuare a mandare i messaggi anche su cose che avevo lanciato giorni fa, cioè che cosa vorreste sentire, quali temi vorreste che affrontassero i leader politici italiani in questa campagna elettorale, ormai sta proprio chiudendosi. Forse il rimprovero è appunto che spesso mancano i temi centrali che riguardano l'Europa. Comunque vedo adesso un lancio di agenzia stringatissimo, Movimento 5 Stelle, Grillo dice abbiamo già vinto ma no a vendetta, forse perché qualcuno si spaventava di questo annuncio di processi via web a politici, imprenditori e giornalisti. Adesso però cambierei argomento, parliamo di quella notizia che avevo annunciato all'inizio, che avevo definito un po' una notizia bomba, perché il boss casalese Antonio Iovine, in carcere dopo una lunga latitanza dal 2010, ha deciso, come si dice in gergo, di cantare. Iovine tra l'altro è considerato uno dei quattro capi del clan dei Casalesi, insieme a Francesco Bidognetti, Francesco Schiavone, conosciuto, l'avrete sentito tante volte, come Sando e Michele Zagaria, e dalle sue rivelazioni di Iovine potrebbero emergere cose estremamente scottanti, e ne vorrei parlare con una politica che è stata soprattutto una grande giornalista. Saluto allora Rosaria Capacchione, buonasera Capacchione. Buonasera a tutti. Giornalista anticamorra, senatrice del PD, ma soprattutto Rosaria Capacchione è diventata famosa, non so se suo malgrado o come dire, perché come cronista davvero di razza del Mattino, del Quotidiano Mattino, si è specializzata in inchieste sulla criminalità organizzata ed è costretta da vari anni anche ad avere la scorta proprio per le minacce subite dal clan dei Casalesi. È diventata un simbolo dell'informazione libera e anticamorra. Dunque, dicevo, il caso del boss Antonio Iovine in carcere, un boss non qualunque, insomma, perché è il famoso boss di Gomorra, no? Dal bestseller di Saviano, e per questo trema il clan dei Casalesi. Trema perché da qualche giorno Iovine ha cominciato a ricostruire alla direzione distrettuale antimafia di Napoli il complesso delle attività, dei rapporti di uno dei più potenti clan di Camorra, appunto i Casalesi, dalla gestione delle attività criminali, le guerre fra clan, ma soprattutto Rosaria Capacchione sta, Iovine, parlando di rapporti tra Camorra e politica? Io non so che cosa sta dicendo in questo momento. Posso immaginare cosa potrebbe dire, visto il lunghissimo periodo in cui lui è stato latitante, quali sono le storie della sua vita che si sono incrociate con quelle della Campania e con una parte della Campania che è stata particolarmente interessata da alcuni fenomeni, penso ai rifiuti per esempio, dove lui non è certamente strano. Certo, ricordo che Iovine è stato arrestato dopo, come diceva senatrice Capacchione, dopo 15 anni di latitanza nell'autunno del 2010 in un covo in una casa di Casal di Principe, e poi per 4 anni è stato detenuto in regime di carcere duro. Evidentemente un po' di effetto questo carcere duro l'ha fatto, si sta cominciando evidentemente a parlare, hanno portato già tutti i suoi parenti lontano da dove abitano e da dove possono essere reperiti, insomma, e lui stesso mi pare che l'abbiano trasferito in un posto segreto. Allora, era, secondo me, almeno per quanto ho imparato a conoscerli dalle carte, lui era quello che più facilmente avrebbe voluto pentirsi, perché lui ha fatto tutta la sua latitanza, 15 anni di latitanza, non nascosto in un cunicolo o in un bunker sotterraneo, ma in case, girando per l'Italia, girando per l'Europa. Le sole foto che noi avevamo, non quelle segnaletiche, ma le foto normali, lo ritraevano a Parigi, sul Costa Azzurra, quindi non fuori dal, diciamo, dal racconto di quelli che sono stati i boss casalesi che vivevano nel loro paese sottoterra. Il suo ultimo rifugio anche non era un bunker, ma era un normale appartamento alla periferia tra Casal di Principe e San Cipriano, ma era un appartamento normale, quindi non ce lo vedevo molto chiuso per tutta la vita in 41 bis, in una cella piccola in un carcere. Tra l'altro, tutti gli agapi era quello che più facilmente avrebbe voluto pentirsi. Tra l'altro lui è anche giovane, ha 50 anni, oltre a essere, no, lo chiamano Oninno se non sbaglio, la faccia da bravo ragazzo, e quindi probabilmente era un nomignolo familiare, per la verità era, non era proprio il suo nomignolo vero, era Oninna Bella, perché era il bel bambino, il bel ragazzino, la faccia da angioletto. Ma adesso, Rosaria Capacchione, che cosa ci si può aspettare? Appunto, titolano vari siti trema il clan dei Casalesi, perché se comincia a parlare Iovine che cosa può succedere? Più quel clan dei Casalesi come apparato militare, che sostanzialmente per buona parte è già tutto in carcere, almeno per quello nelle sue massime espressioni, credo che ci sia tutta un'altra parte della provincia di Casaletta, di Napoli e forse anche di Roma che sta cominciando a tremare. Ma sono i colletti bianchi, sono i professionisti, alcuni pezzi della politica. Quindi, insomma, non è soltanto i così noti e immaginabili criminali che possono, no, finire in manetta. Quelli sono già tutti quanti più o meno in carcere, quindi hanno poco da tremare, ergastolo in più, ergastolo in meno, non credo che ti cambia molto, ma ci sta tutta un'altra serie di persone che a mio giudizio hanno molto da temere dalla sua collaborazione. Quindi diceva Rosaria Capacchione, colletti bianchi, politici, diciamo categorie molto, molto varie, molto diversificate, fuori dalla camorra tradizionale, insomma, della criminalità organizzata. Ma fuori della camorra tradizionale, come siamo immaginati, al di fuori della mia terra, raffigurarla, cioè non fuori della camorra di Scampia, per intenderci, ma in quella che è stata sempre quello che è stato sempre il grande Casalesi, la sua grande capacità di infiltrarsi nella parte pulita, diciamo così, della società, quella che non si vede, nell'imprenditoria, appunto nella politica, negli affari, nei gran commi di Stato. Questa sarà sempre una caratteristica dei casalesi, in questo molto, molto simili alla mafia, a Cosa Nostra. E lui è, diciamo, il livello più alto che poteva collaborare, anche vista la sua lunghissima latitanza. Le sue conoscenze non sono antiche, coincidono, finiscono quando già il clan, così come l'abbiamo conosciuto, non esisteva più, perché Zagaria è arrestato solamente un anno dopo. Quindi, diciamo, c'è un buco di conoscenze di appena un anno rispetto alle grandi dinamiche del clan. Senta, il procuratore di Reggio Calabria ha detto a questo punto il clan dei Casalesi è finito, però Rosaria Capacchione, da quello che sta dicendo, in realtà quello militarmente, il braccio armato, sarebbe già finito. Appunto, si riferiva ad altre categorie che non sono... alle coperture, a chi ha consentito a questo clan da essere un clan, una banda di paese. Stiamo parlando della fine degli anni 70, fino a diventare quello che è diventato, l'interlocutore ai massimi livelli delle grandi organizzazioni criminali mondiali. Non dimentichiamo che Bardellino, che era, diciamo, il padre spirituale, se vogliamo, di Iovine, era un affiliato a Cosa Nostra, era riconosciuto al tavolo, alla cupola di Cosa Nostra, ai rapporti con le mafie internazionali. Quindi stiamo parlando di un altro livello. Ecco, quel tipo di organizzazione contava su moltissime coperture che non sono state ancora scoperte. Anche perché mi sembra che si riconosca a Iovine proprio la capacità, no, di creare intrecci, di arrivare, come diceva, a livelli più alti anche nella società, tra virgolette, civile. Che lo dimostra. E lui era, cioè, il boss che si fa fotografare a Parigi piuttosto che in Costa Azzurra, che mette le mani pesantemente nell'affare dei rifiuti, ma anche nel gioco, ma non nel gioco clandestino, nel gioco legale. Beh, insomma, forse qualche contatto oltre quelli paesani lo avrà. A questo punto, quale potrebbe essere poi, secondo lei, Rosaria Capacchione, il destino di Iovine? Adesso da pentito si comincia appunto a tirare fuori tutta una serie di cose estremamente importanti che faranno tremare. Vabbè, lui ha comunque due ergastoli, almeno due ergastoli definitivi, quello di Sparta, questo è un altro omicidio commesso, contestato al di fuori di Sparta, questo è di un imprenditore di Ana, un omicidio dell'85, che è anche quello ergastolo definitivo, quindi non credo che lui abbia a brevissima scadenza una scarcerazione, ma non è più il 41 bis. Carcere duro. Spartacus, lo ricordo, è il più importante processo che è stato fatto contro i Casalesi. Ma adesso lei, Rosaria Capacchione, senatrice PD, ma da giornalista, dicevo, d'inchiesta di grandissimo livello, che cosa prova in questo momento? Qual è la sua sensazione una volta saputa, presa questa notizia, che Iovine sta cominciando? Il piacere di non essere al giornale per raccontarlo. E quindi preferirebbe più che in Parlamento essere lì al giornale, perché quello è il suo vero lavoro. Sì, e dopo 34 anni quasi di quel lavoro, non è che uno lo dimentica l'altro facilmente, non è uno scranno a Palazzo Madama che si può fare dimenticare queste cose, assolutamente. Questo sì, però se l'è conquistato, e immagino che potrà fare anche da lì delle cose importanti, no? Ma non lo so, questo non lo so. Ah. Forse in commissione antimafia. Diciamo che in questo momento mi manca molto il giornale. Comunque, quando si rimane legati a un lavoro, lo si fa con la passione e col coraggio che le ha fatto Rosaria Capacchione. Tra l'altro ha sempre la scorta, no? Sì. Immagino, varie minacce di morte. Grazie infinite. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buona continuazione. Stavo intanto guardando anche alcuni vostri messaggi che stanno arrivando proprio sul caso Iovine, e dice un ascoltatore o ascoltatrice al 349-238-6666 senza firmarsi, dice: Iovine, finalmente è ora di finirla, hanno capito che i loro sporchi affari sono un danno per loro stessi, figli della terra dei fuochi, anche i camorristi muoiono. Ma non so se diciamo si è slacciato un po' per questo, per una questione di coscienza, o piuttosto perché ha capito che stare lì nel 41 bis, il carcere duro, in una cellina piccola, isolato, forse era diventato piuttosto pesante. Poi scrive Massimo: a proposito di questione morale, Renzi però non parla di Greganti, come mai? Questo sulla campagna elettorale. Invece Tina torna su Iovine, dice: un ravvedimento così veloce può essere dovuto solo a un accordo tra camorrista e magistrati, vedremo cosa uscirà fuori, o perlomeno cosa farà comodo che esca fuori, ma chissà, Tina, effettivamente così potrebbero venire fuori cose sconcertanti, importantissime, oppure chissà. Però per il momento su questo ci fermiamo, vedo altre cose che vengono fuori dalla campagna elettorale, però ci prendiamo una pausa di pubblicità e poi avanti con altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e vedo i vostri messaggi al 349-238-6666 anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Arcuri che scrive: gentilissima Roberta, si metta l'anima in pace perché stiamo per voltare pagina col Movimento 5 Stelle. L'anima ce l'ho già in pace, magari per altre questioni mie private meno. L'ascolto mentre parla con disinvoltura di fatti di cronaca, così però non è mai stato per i fatti di politica, peccato. Non so se mi segue da un ventennio, Arcuri, ma non capisco che cosa significhi parlare con disinvoltura di fatti di politica. Mi sembra, non lo so, forse dovrei farlo cantando. Però ricordiamo invece i fatti principali in generale della giornata che riguardino la politica o meno, la campagna elettorale per le europee. Renzi dice: vinciamo, lascio solo se bloccano le riforme. Berlusconi dice: fra un anno si vota. E poi Grillo invece afferma: faremo come Roosevelt, andremo al governo col 58%. Intanto alle urne è andata l'Olanda. Economia illegale entra nel PIL, contano droga e prostituzione dal 2014, in vigore quindi le nuove norme Eurostat. Il governo rilancia la cultura con l'Art Bonus per i mecenati, poi arriva un commissario a Caserta e dei progettisti a Pompei e soldi al cinema, truffa a Carige e riciclaggio ai domiciliari Bernaschi, vicepresidente dell'associazione Banche Italiane. MediaTrade: PM chiede condanne per Pier Silvio e Confalonieri si adeguarono all'andazzo, dice così, e c'è la rivolta in Forza Italia, poi il nuovo golpe in Thailandia. Ma adesso colleghiamoci con Andrea Ferro. Andrea, buonasera. Da Genova, il nostro Andrea Ferro da Genova, per capire appunto tra le notizie che vi elencavo prima la questione della Carige o Carige si dice tra l'altro, perché molti Carige, truffa ai danni della banca Carige con 7 arresti eccellenti. La Guardia di Finanza ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti coinvolti in una presunta truffa all'istituto bancario Carige. Ci racconti un po', Andrea, sembra, dicevo prima, che ovunque si scavi in Italia si trova un pozzo nero, lì che cosa è successo almeno? In questo caso il sistema funzionava così: il ramo assicurativo di Banca Carige acquisiva immobili e partecipazioni societarie a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato, grazie ad una serie di perizie ed intermediazioni compiacenti. Poi, attraverso una complessa serie di operazioni commerciali e finanziarie, questi fondi, o almeno buona parte di questi fondi, venivano destinati a finanziare investimenti privati in Svizzera, tra i quali anche l'acquisto delle quote di un albergo di lusso di Lugano, l'Holiday Inn, un'operazione da 16 milioni di euro. Nelle intercettazioni, iniziano a trapelare in questi minuti alcuni passaggi, queste quote venivano chiamate da Berneschi in codice ragazze o anziane, un fiume di denaro, almeno 21 milioni di euro solo dal 2006 al 2009, di fatto distratti dalle casse della banca, ma la cifra potrebbe essere molto più alta, si parla di un danno di almeno 100 milioni a carico dell'istituto di credito. Infatti l'attuale presidente di Carige, Castelbarco, da stamane ripete che in questa vicenda la banca è parte lesa. Il personaggio centrale della vicenda è Giovanni Berneschi, 77 certo. anni, praticamente un'intera carriera in Carige, pensate, entrò anni e anni fa come semplice impiegato, poi scalò tutta la catena di comando. Ha fatto carriera, insomma, non gli è bastata, però almeno così. Un uomo potentissimo a Genova in Liguria, pensate, per 20 anni praticamente ha avuto in mano le redini dell'istituto di credito più importante della Liguria, comunque uno tra i più importanti d'Italia, concedendo talvolta trattamenti di favore che di volta in volta hanno suscitato, o meglio negli ultimi tempi hanno suscitato l'interesse di Banca Italia, al punto che l'estate scorsa era scattata una ispezione da parte degli ispettori che avevano rilevato una serie di operazioni appunto legate anche a trattamenti di favore nei confronti di alcuni imprenditori, tra i quali il costruttore savonese Nucera. E infatti prima di questa inchiesta genovese già la procura di Savona aveva aperto un procedimento a carico di Berneschi, e Berneschi infatti da mesi risulta già indagato anche da quella procura. Per quanto riguarda invece gli altri destinatari dei provvedimenti restrittivi, c'è Ferdinando Manconi, ex AD del ramo assicurativo di Carige e poi anche la nuora di Berneschi che avrebbe preso parte a questa presunta truffa. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Roberta, sei da chiedermi ancora qualcosa? Resto qui. Insomma, hai raccontato un sacco di cose, devo dire che è difficile seguirle, non perché tu ne abbia raccontate tante con colpa, ma perché purtroppo tante cose ci sono di mezzo, tanti soldi, milioni, tante persone davvero, perlomeno diciamo, presunte colpevoli di grandissima avidità, poi però insomma sembra una cosa abbastanza avviata, no, questa, Andrea Ferro? Molto probabilmente, anzi, togliamo il molto probabilmente, è un filone di un'inchiesta aperta in generale sulla gestione di Banca Carige negli ultimi anni da parte appunto di Berneschi, plenipotenziario dell'istituto di credito, e che evidentemente a questo punto potrebbe questa inchiesta avere nuovo impulso dal materiale, dall'imponente mole di materiale che è stata sequestrata nel corso delle perquisizioni di stamane, che sono avvenute oltre che a Genova anche a Milano e alla Spezia. Grazie Andrea Ferro intanto da Genova. Ciao Andrea. A te, buonasera. Grazie. E c'è un ascoltatore al 349-238-6666, Roberto da Modena, che dice: allora ha ragione Grillo a dire che la Consob, cioè l'organismo di controllo della borsa, dice dov'era la Banca d'Italia, dov'era? Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra pochi istanti, allora, ci colleghiamo con Sergio Nava per capire quali sono i primi exit poll, le prime indicazioni di voto dall'Olanda. Mi pare che un dato dominante sia un certo astensionismo, ma poi chiederemo conferma. Intanto vi ricordo appunto che è partita, che sta finendo in Italia la campagna elettorale, ma che è partito il voto in Europa con Gran Bretagna e Olanda per quanto riguarda le elezioni europee. Noi voteremo domenica 25 maggio. Truffa alla Banca Carige a Genova e riciclaggio, l'avete appena sentito un po' i dettagli da Genova. Il PIL dal 2014 in vigore, le nuove norme Eurostat, cioè nel calcolo del prodotto interno lordo, conterà anche l'economia illegale come il contrabbando, la prostituzione e la droga. La notizia grossa di Camorra: si pente il boss dei casalesi, Iovine ha approntato un programma di protezione per i parenti. E poi per la cultura il governo approva il decreto che prevede sgravi fiscali per le donazioni, parte la riforma anche dell'Enit. Ma adesso parliamo di Europa. Europa 24 notte. Sergio Nava, allora, abbiamo detto che Gran Bretagna e Olanda sono stati i primi ad andare alle urne, man mano si andrà nei prossimi giorni, noi saremo gli ultimi il domenica 25. Quali sono le prime indicazioni di voto che arrivano dall'Olanda, Sergio? Buonasera, interessanti indicazioni di voto, Roberta, perché c'è una sorpresa, cioè il partito anti-euro, euroscettico e anche di destra, il partito della libertà di Geert Wilders, il grande spauracchio, almeno a Bruxelles, secondo i primi exit poll, ha subito un calo ed è solamente al 12% dei voti, sarebbe al terzo posto, non ha avuto quindi quel balzo che ci si attendeva. Ricordiamo che questo partito, insieme al Front National in Francia e al UK Independence Party in Gran Bretagna, sono i più temuti a Bruxelles. Ebbene, si inizia con un clamoroso arretramento dei partiti euroscettici, questo almeno in Olanda, che è stato il paese che ha votato oggi insieme alla Gran Bretagna. Tra l'altro Olanda ha violato per la seconda edizione consecutiva delle elezioni europee l'embargo sui risultati, perché hanno diffuso gli exit poll. Fa l'indisciplinata praticamente, continuano. Cioè ha già detto che cosa hanno votato. Hanno deciso di farlo così e continuano. Primi si contendono la palma del primo partito, i cristiano democratici e i social liberali, poco sopra il 15%. Come dicevi poc'anzi, c'è anche il problema dell'affluenza, che è veramente bassa, 35% solamente degli aventi diritto, un leggero calo addirittura rispetto a 5 anni fa, quando era stata solamente del 36,75%. Quindi ci racconti quelli dell'Olanda di exit poll, perché dicevamo solo l'Olanda che li ha ufficializzati al momento, mentre la Gran Bretagna giustamente rispetta le regole, quando dovrebbero dire, solo quando anche l'ultimo paese, anche l'Italia, avrà votato? Sì, diciamo l'Italia ha veramente rotto le uova nel paniere quest'anno, perché chiudendo i seggi alle 23 e in alcuni paesi europei le nostre 23 è addirittura mezzanotte nei paesi più a est, veramente ha portato l'attesa per i risultati di queste elezioni europee, queste attesissime elezioni europee, addirittura a orari veramente a notte fonda di domenica, e quindi abbiamo veramente un po' rovinato la programmazione della notte elettorale di domenica, potremmo dire. Senti Sergio, comunque l'Olanda ha chiuso ormai, ha chiuso le urne. Sì, l'Olanda ha chiuso le urne alle 21. Allora, ripetiamo, questi sono exit poll. Sì. Ci sono anche due. Quindi le interviste fatte a chi usciva dalle urne. Sì, dicendo, il campione, se non ricordo male, di circa 40.000 persone. Mm. Ci sono tra l'altro due organizzazioni indipendenti olandesi che hanno fatto un'altra cosa ancora più scientifica. Cioè, poiché in Olanda gli scrutatori, i presidenti di seggio, leggono, fanno lo spoglio pubblicamente, cioè leggono uno per uno i voti. Hanno mandato dei volontari o comunque delle persone pagate da queste organizzazioni per assistere agli scrutini e quindi ricopiare praticamente tutte quante le votazioni ufficiali, e questo l'hanno fatto più o meno in un quinto dei seggi, e quindi di fatto i risultati arriveranno questi nelle prossime ore. Di fatto si avrà una proiezione, anzi più che una proiezione, un vero e proprio, potremmo dire, risultato parziale delle elezioni olandesi già nelle prossime ore. Saranno veramente, rasenteranno quasi, visto il campione molto elevato, la perfezione. Quindi di fatto dell'Olanda sapremo tutto, quantomeno. L'Olanda vuole essere subito la prima e trasparente. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte. Adesso invece un altro tema che vedo che ha colpito per esempio l'immaginazione o il ragionamento di Fabrizio da Padova, che dice: con prostituzione, stupefacente e contrabbando il PIL diventerà proprio lordo in tutti i sensi, lordo nell'accezione negativa di qualcosa di sporco. Di questo parliamo effettivamente adesso, di questa novità voluta da Eurostat, che è l'istituto statistico europeo, che ha deciso che entreranno nel calcolo del PIL, cioè del prodotto interno lordo della ricchezza di un paese, anche i fatturati delle attività illegali, come appunto vi dicevo, per esempio traffico di sostanze stupefacenti, la prostituzione, il contrabbando e poi anche il contrabbando di sigarette o di alcol. La novità sarà inserita a partire dal 2014 nei conti, in coerenza appunto con le linee dettate da Eurostat. Da ogni paese la stima sul business nazionale generato da droga, prostituzione e contrabbando dovrà essere conteggiato. Quindi attività illegali, si tratta di una novità che rientra nelle modifiche condivise a livello europeo. Vorrei sapere che cosa ne pensa Lilian Giardino Carlinger. Buonasera dottoressa, professoressa. Buonasera, saluto tutti. Buonasera. Economista alla Luis Guido Carli di Roma. Poi le farò sentire anche cosa ha detto il direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche dell'Istat. Oggi era ospite a Focus Economia. Ma lei che cosa pensa di questa novità? Ma personalmente penso che è una buona idea cercare di armonizzare il calcolo del PIL fra i vari paesi europei, e penso che questo era anche il motivo per introdurre questa misura. Ora, uno può interrogarsi se costringere tutti i paesi a fornire delle stime di, come ha detto lei, prostituzione, traffico di droga e altre attività illegali sia il metodo più indicato, perché per quanto mi risulta il motivo per cui si è resa necessaria questa armonizzazione è perché in Olanda queste cose, quindi prostituzione e vendita di droga, sono legali e quindi entrano automaticamente nel PIL come tutte le altre attività legali. Ma lì sono legali comunque, diceva, esatto, no? Questa è la differenza. Appunto, sono legali, quindi io da economista direi, se la vera preoccupazione è di non avere una base, diciamo, comune del calcolo del PIL, non facevamo prima ad escludere dal PIL olandese questi elementi, e quindi gli altri paesi continuano a non includere delle stime, perché più di stime non possiamo avere, certo, visto che queste, essendo illegali, saranno anche appunto di sottobosco. Ma mi viene quasi una battuta, professoressa Giardino Carlinger, cioè sembra quasi che in un momento di crisi, per gonfiare un po' il PIL, per farci sembrare, per sembrare tra tutti noi di avere più ricchezza, calcoliamo anche quella, visto che ne abbiamo un po' poca, no? Questa è una battuta, però... Oltre alla battuta, penso che c'è molta verità in quello che dice lei, cioè c'è una tendenza, piuttosto appunto, di ridurre il PIL olandese per quegli elementi che da noi non verrebbero considerate attività produttive nel senso stretto della parola. Adesso ognuno si mette, chiaramente con metodi più o meno fantasiosi, a stimare una quantità che tutti quanti non possiamo sapere, e quindi ci risulta un PIL più grande. Io non oso immaginare cosa significa poi una politica della crescita in questo contesto, cioè non vogliamo neanche, diciamo, entrare in queste in queste, cioè, farci immaginare cosa voglia dire. Comunque dice giustamente, sì, un conto è gonfiare questi i conti del PIL. La domanda è se questo va a favore, per esempio, dell'Italia. Secondo me è un'arma a doppio taglio, perché è vero che gonfiando il PIL poi chiaramente vari indicatori tipo il debito pubblico rispetto al PIL, eccetera, cioè si riducono, e questo va benissimo. È anche vero però che l'assegnazione dei fondi europei va fatta, cioè dico attraverso i vari paesi europei, va fatta in base al PIL che calcolano questi paesi, e quindi vuoi vedere che poi questo va a sfavore in realtà dell'Italia, che poi sembrerà più ricca, come la Grecia sembrerà più ricca, perché sicuramente ci sarà tanta attività illegale in questi paesi, ma non vuol dire che il benessere, che stiamo meglio, certo. Esatto, professoressa, allora anch'io sono d'accordo con lei, mi sembra un po' un paradosso, però sentiamo che cosa ha detto oggi a Focus Economia, dicevo, Giampaolo Onedo, che è direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche dell'Istat. È vero che si stima che il livello del PIL italiano possa avere un aumento tra l'1 e il 2%? Allora, questa stima fra l'1 e il 2% è una stima che in realtà ha già circolato, perché arriva da Bruxelles. La diffusa Eurostat che ha chiesto a tutti i paesi, però è una stima anche piuttosto vecchia, che era di larghissima massima e che non considerava tutte le componenti. Adesso ci stiamo lavorando molto intensamente e ci vorrà ancora un po' di tempo. Cioè, lei mi sta dicendo che potremmo superare la Germania? No, dico. No, assolutamente no. Ah, vai, sarebbe incredibile fare chiudere un PIL quest'anno in rialzo forte grazie a questo nuovo criterio di contabilità. No. Allora, il rialzo è del livello, questo è molto importante, perché sennò anche... Lei dice è il livello del PIL che aumenta, ma quello che poi noi andiamo a guardare anno per anno è quanto cresce, è la percentuale di crescita, cioè se il PIL cresce o non cresce. Quindi dice però quest'anno, da un punto di vista statistico, faremo un balzo in su, perché magari da 1560. No, ma questo balzo in su poi lo ricostruiamo all'indietro, e quindi non sarà più allora non c'è nessun beneficio. Cambiano i livelli. Cambiano i livelli e non le dinamiche. Insomma, diciamo che ci ha parecchio colpito, ecco, questa notizia. Professoressa Giardino Carlinger, io la ringrazio, ci sarebbe per una battuta proprio 20 secondi, se lei riesce a stare in questi 20 secondi. Ma diciamo che, come ho detto, cioè, da economista io mi auguro invece che il sia calcolato il più possibile in base a dati attendibili e non in base a metodi fantasiosi. Siamo d'accordo. Io personalmente. Grazie professoressa, grazie buon lavoro e buona continuazione. Adesso io vi lascio brevemente, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note per voi, e ci sentiamo tra poco.